L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, siamo in diretta come sempre da Radio 24 con l'Altra Europa, il nostro appuntamento settimanale per raccontarvi il percorso europeo. A noi l'Europa piace, e ci piace anche condividerla con voi il sabato, l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità. Non nascondiamo i punti critici, anzi tentiamo di affrontarli con serietà e serenità. Radio 24 quotidianamente vi racconta quella che è l'attualità politica ed economica dell'Unione Europea. A noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista, un programma in collaborazione con Euronet Plus, network europeo, tante voci diverse per raccontare una stessa Europa. Le coordinate per trovarci anche in rete: euronetplus.eu, il portale che come sempre vi consiglio di seguire. Invece sui social network Euronet Plus R24, oppure chiocciola Federico Taddia su Facebook e su Twitter, l'hashtag è l'altra Europa. Lì tentiamo di mettere tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare minuto per minuto. Oggi cammineremo lungo quella che era la cortina di ferro, oggi torneremo a Kiev, oggi parleremo delle prossime elezioni europee, anche oggi come sempre viaggeremo e si parte dalla Cornovaglia. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Regio Stars 2014 sono i premi più prestigiosi per i progetti regionali più innovativi d'Europa, un premio promosso dalla Commissione Europea proprio per sottolineare quei progetti che utilizzando i fondi europei riescono meglio a integrarsi con il territorio nel segno in questo caso dell'innovazione. Quattro i premi assegnati: crescita intelligente, crescita sostenibile, crescita inclusiva e City Star. Quattro progetti in quattro storie diverse in quattro angoli d'Europa. Una regione del Portogallo ha vinto la crescita intelligente per questo progetto legato all'industria del mobile. Bicom invece nel Galles occidentale, la crescita sostenibile per lo sviluppo di nuove tecnologie per soddisfare la crescente domanda di energia e risorse. Invece a Gdynia in Polonia è andato il premio per il trasporto ecologico, il trasporto City Star. Ma quello che più ci ha incuriosito e ci piaceva raccontarlo perché ci sembrava una bella metafora di quello che è proprio il legame tra Europa e territorio, tra il global e il local, è questo progetto di crescita inclusiva e si è tenuto in Cornovaglia e aveva proprio al centro la cucina italiana, un programma di apprendimento 15 Cornwall è il titolo, e con noi c'è Roberto Salvoni che è cliente consigliere di questo ristorante 15 Cornovaglia ed è quindi la persona più adatta per raccontarci quello che hanno combinato. Buongiorno Roberto, benvenuto all'Altra Europa. Grazie Federico, buongiorno. Di origini italiane, ma nato lì? No, sì, sono inglese, però i miei genitori sono italiani di Brescia. Ok, tu sei, anche tu da sempre ti sei occupato di ristorazione, se non erro? Sì, sono, come hai detto, un amico, un consigliere, cliente di 15 Cornwall, ma ho anche altri lavori qui in Cornovaglia. Uh-huh. Ecco, qual è stata l'idea di base di questo progetto? Un ristorante che sì, si ispira alla cucina italiana e che cerca di coinvolgere ragazzi a rischio, giusto? Esatto, è un ristorante accanto alla spiaggia in Cornovaglia, ispirato dalla cucina italiana, ma utilizzando in grande parte ingredienti locali. Però è anche un'organizzazione di beneficenza, no profit. Il motivo principale, la filosofia, è da trovare lavoro per giovani. Ogni anno scelgono più o meno una ventina di giovanotti da 16 a 24 anni, sì, disavvantaggiati o disoccupati, con problemi, non so, in famiglia, problemi sociali, con disabilità, anche fedina penale sporca, con problemi di droga, sì, e insegnano a cucinare. E ci sono stati risultati eclatanti, nel senso che quasi 130 giovani coinvolti e formati in questi anni, moltissimi di loro poi hanno trovato lavoro, aumentando anche l'indotto economico della zona. Quello è importante, perché Cornovaglia è una regione con molto disoccupazione, è molto dipendente sul turismo. La stagione estiva è più corta che in Italia, qui è sempre freddo in Inghilterra, però molti giovani lavorano stagionalmente, non c'è molta industria qui in Cornovaglia, però è anche chiamata la riviera inglese, il clima è perfetto per coltivare prodotti tipici italiani, c'è la spiaggia, c'è il mare, c'è pesce, frutti di mare. Feste in Como crea lavoro non solo per gli apprendisti, ma anche nella catena dei fornitori locali. Mm-hmm. E come mai è stata proprio scelta la cucina italiana? Perché piace? Perché è cucina di qualità, o ci sono anche altri motivi? No, è il migliore del mondo. l'idea è stato creato dal grande chef Jamie Oliver. Sì. Il nostro chef qui, il capo cuoco Andy Appleton, è un amante d'Italia. Ogni anno va in Italia con gli apprendisti per guadagnare ispirazione. Visitano produttori in Toscana e Puglia per imparare le tecniche, vanno in ristoranti come la macelleria di Dario Cecchini in Panzano, anche Pietro Zito in Antichi Sapori in Montegrosso, e trovano ingredienti tipici italiani. Mm-hmm. Insomma, questo è bello, perché come sempre questa è l'Unione Europea, no? Si prende il meglio, si cerca di renderlo replicabile, di ispirarsi. Progetto realizzato con fondi europei, oltre 100 ragazzi coinvolti, premio che ha ricevuto questo importante riconoscimento Reggio Stars 2014. Grazie davvero, Roberto. Che tempo fa oggi in Cornovaglia? È bellissimo, sempre sole qui in Cornovaglia, dovete venire a visitare la riviera inglese. Ottimo spot, grazie davvero Roberto per essere stato con noi, buon sabato. Buon sabato, grazie mille. Ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando, prima un post-it, poi ancora qua in diretta con l'Altra Europa. Europost-it. Porte aperte per la Festa dell'Europa. In occasione della Festa dell'Europa il 9 maggio per tutto il mese, le istituzioni dell'Unione Europea aprono le porte al pubblico. È un'occasione per conoscere meglio l'Unione Europea. I palazzi delle istituzioni dell'Unione Europea aprono al grande pubblico le porte delle loro sedi di Bruxelles e Strasburgo. Gli uffici locali dell'Unione Europea in Europa e nel resto del mondo organizzano una serie di attività ed eventi per tutti. Gli appuntamenti sono il 4 maggio 2014 a Strasburgo, il 10 maggio 2014 a Lussemburgo e il 17 maggio 2014 a Bruxelles. Per saperne di più, andate sul sito europa.eu nella sezione Festa dell'Europa. L'altra Europa. La campagna virale per le elezioni nata online, questa colonna sonora, questi video appunto ideati per invitare i giovani e non solo, invitare i cittadini al voto. Numeri importanti per le elezioni nel programma il 25 maggio, quando si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo. L'Unione Europea conta circa 506 milioni di cittadini, di cui 400 milioni hanno diritto al voto. Poi c'è un numero che è ancora più significativo ed è 37,4 milioni. Sono i giovani aventi diritto al voto e che per la prima volta andranno a votare. Per la prima volta sono chiamati alle urne, questa è la prima volta proprio per le elezioni europee. E proprio pensando a loro è stata ideata un importante ciclo di incontri, dialogo sul futuro dell'Europa, e l'ultimo appuntamento, il 9 aprile, qui a Milano, è interamente dedicato ai ragazzi che per la prima volta andranno a votare. Per iscriversi, le adesioni scadono il 7 aprile, europedirect@regione.lombardia.it, la mail da contattare. E con noi c'è Bruno Marasà, direttore dell'ufficio di informazione a Milano del Parlamento Europeo, una delle persone che più ha voluto questo ciclo di incontri e una delle persone che accoglierà i giovani appunto il 9 aprile, mercoledì alle 10 presso l'Auditorium Giorgio Gaber qui a Milano. Ciao Bruno, benvenuto all'Altra Europa. Grazie, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Tantissima speranza per questa Europa verso i giovani, e quindi si parte da lì, si parte dai ragazzi che per la prima volta andranno a votare. Sì, effettivamente noi stiamo concentrando molto l'attenzione sui giovani, perché sono la speranza, come dicevate anche voi. E abbiamo incontrato in queste settimane centinaia di giovani a Milano, ma non solo a Milano, nel nord Italia, e la constatazione che mi viene da fare subito è questo: quando si parla con i giovani è un po' più facile spiegare l'Europa. E credo che da questo punto di vista, se volete, ho preparato una piccola hit parade, una mini hit parade dei motivi, dei buoni motivi per cui i giovani devono votare, ma che aiuta, i motivi che aiutano i giovani a capire meglio l'Europa. Certo, la facciamo nostra, vai. Allora, cominciamo con il roaming, che conosciamo tutti ormai, è una specie di servitù, di tassa supplementare, visto che viviamo in un'Europa senza confini. Il Parlamento europeo la settimana scorsa ha votato una direttiva per cui dal dicembre 2015 sarà abolito il roaming in entrata e in uscita. Saremo europei al telefono come siamo cittadini europei. Mm-hmm. Questa è l'Europa nella quotidianità, no? Quanto l'Europa entra nella nostra vita. L'Europa di tutti i giorni. E nell'Europa di tutti i giorni ci metterei un'altra parola chiave che è stata anche molto ricorrente in questi giorni a Milano, l'Erasmus. Certo. Ormai Erasmus c'è dal 1987, ha compiuto 25 anni, ci sono milioni di giovani che ormai studiano, completano i corsi universitari in altre università di altri paesi europei. Erasmus è stato non solo confermato ma rafforzato nel nuovo bilancio dell'Unione Europea. Quindi molti più giovani potranno frequentare l'Erasmus, e non solo giovani universitari ma anche giovani imprenditori, giovani lavoratori, e quindi un Erasmus che estende un po' il concetto della combinazione di percorsi formativi non solo all'interno del proprio paese. Vogliamo citarne un'altra? Sì. Horizon 2020. Orizzonte 2020 è il nuovo programma di innovazione e ricerca, è uno dei programmi più consistenti dal punto di vista finanziario dell'Unione Europea, e il Parlamento Europeo è riuscito, in una situazione in cui il bilancio generale dell'Unione Europea è stato tagliato, a rafforzare questo pilastro della politica europea. Si passa da 50 miliardi a 80 miliardi di euro. Perché questo interessa i giovani? Perché ovviamente nella competizione globale noi possiamo pensare di affermare e mantenere anche i valori e i livelli di crescita europei se sappiamo che saremo capaci di innovare, innovare i prodotti, ma innovare anche le tecnologie, avere un'economia più verde, più sostenibile, eccetera. Quindi Orizzonte 2020 è una, non è una prospettiva vaga, ma è una prospettiva molto concreta che chiamerà in causa le università e i centri di ricerca. Ovviamente Milano da questo punto di vista è all'avanguardia. Poi vorrei citare, noto a tutti ma vale la pena ricordarlo, Schengen è una piccola cittadina al confine tra Lussemburgo, la Francia e la Germania. Fu firmato anche lì molti anni fa un trattato che ci ha dato la libera circolazione in Europa. Noi possiamo circolare liberamente in Europa grazie al fatto che appunto l'Europa ha abolito fisicamente, direi, proprio le frontiere. Poi, un po' controcorrente con quello che si dice in questi giorni, sì, vado in fretta, vorrei citare anche l'euro. Dell'euro si può dire tutto il male possibile, ovviamente in relazione ai dati macroeconomici, all'economia, alla politica di austerità e di rigore che in qualche modo ha condizionato sicuramente anche la vita dei cittadini europei, ma immaginiamo cosa sarebbe l'Europa senza l'euro. Intanto saremmo molto più divise, in concorrenza tra di noi, avremmo monete più deboli, non avremmo avuto i tassi di interesse molto bassi che ci sono stati in questi anni e non saremmo preparati alle sfide globali. Bisogna riorientare le politiche macroeconomiche, ma l'euro è la condizione per fare questo, e le misure che ha deciso ancora ieri Draghi dimostrano che c'erano già prima dei margini di manovra più ampi per rendere meno pesante le politiche di austerità di questi anni, che indubbiamente vanno cambiate. E poi un'ultimissima, sì, però importantissima parola vorrei mettere nella hit parade dei motivi per votare e sostenere il processo di integrazione europea, che è la pace. Non dimentichiamo che la si dà per scontata, vero? Invece il punto si dà di partenza. Per scontata, ma è forse la cosa più importante. I giovani per fortuna non hanno conosciuto le guerre, ma noi sappiamo che nel secolo scorso gli stessi paesi europei che oggi stanno insieme, magari litigando un po' tra di loro sui tassi di interesse o sulle direttive da approvare, si erano fatte due guerre in cui ci sono state decine di milioni di morti, e questo non mi sembra poco. Questa è una sintetica hit parade dei motivi del perché credere ancora nell'Europa, del perché andare a votare. Sarà un po' questa la colonna portante dell'incontro, dialogo sul futuro dell'Europa, un dibattito aperto, in particolare rivolto ai giovani chiamati al voto per la prima volta. Lo ripeto, si terrà mercoledì 9 aprile dalle 10 presso l'auditorium Giorgio Gabriel. Iscrizione entro il 7 aprile, europedirect@regione.lombardia.it è la mail per aderire con la propria classe, con la propria scuola. Se poi se avete domande sul futuro dell'Unione Europea potete inviarle allo stesso indirizzo email, perché insomma diventeranno così oggetto di confronto durante la giornata. Certamente. Bruno, hai qualcosa da aggiungere? Insomma, saranno settimane toste, perché le elezioni praticamente sono domani, c'è cioè, la strada è ancora tanta. Certo. 25 maggio. Sì, no, vorrei aggiungere solo una cosa, se mi permette, Federico, il fatto che questa è la prima volta in cui il Parlamento europeo che sarà eletto poi eleggerà a sua volta, nominerà ed eleggerà il Presidente della Commissione europea. È la prima volta che succede. Questo è una conseguenza del Trattato di Lisbona, che è entrato in vigore solo 4 anni fa. E questo è importante, cioè noi in realtà col nostro voto scegliamo chi decide. Questa è un po' la parola d'ordine che è stata lanciata nella promozione istituzionale della campagna elettorale, e questo mi sembra un fatto, ne parleremo con i giovani, perché gli racconteremo come funziona l'Unione Europea, la differenza che c'è tra Consiglio, Commissione Europea e Parlamento Europeo. Non sempre tutti lo sanno, è importante conoscere anche questi aspetti, e però è importante ricordare appunto che con il voto del 25 maggio sceglieremo chi decide in Europa. Certo, con quella crocetta si diventa protagonisti dell'Europa, del nostro futuro. Certo. Grazie davvero Bruno, bocca al lupo per l'incontro e non solo per quello. Grazie per questa opportunità. Ciao, buona giornata. A voi. Ciao. Ciao. Adesso un euro post-it, la pubblicità, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Euro post-it. Cerchi lavoro? Cerca gli eventi Eures. Se state cercando lavoro anche fuori dall'Italia, prima di tutto ricordate il portale Eures, che raccoglie opportunità di lavoro da tutta Europa e offre molti strumenti per candidarsi, scrivere e mettere online il proprio curriculum. Per conoscere meglio come funziona e cosa offre, vengono spesso organizzati eventi, fiere e job days a livello nazionale e locale. Per trovare tutti gli eventi, andate sulla sezione calendario sul sito ec.europa.eu/Eures. L'altra Europa. Czech science has a long history. Ancora buon sabato da Federico Taddia. Questa è sempre l'altra Europa, una musica epica con cui riapriamo il nostro programma, l'Europa delle opportunità, l'Europa delle possibilità. Vi ricordo, ci trovate anche su Facebook e su Twitter, chiocciola Federico Taddia oppure chiocciola Euronet Plus R24 per conoscere tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. La voce che state ascoltando adesso ci sta accompagnando verso Euraxes on Tour, l'iniziativa di cui andremo a parlare. Vi abbiamo approfondito qualche settimana fa il tema di Euraxes, questa iniziativa congiunta della Commissione Europea e di oltre 40 paesi, ovvero i 28 stati membri più altri paesi europei associati, che ha l'obiettivo di rendere più attrattive e conosciute le opportunità di ricerca esistenti in Europa. È un grande portale, una grande vetrina, una grande occasione di incontro tra chi stanzia fondi per la ricerca, per i ricercatori, per le aziende coinvolte. E questo portale ha deciso di scendere in strada, ha deciso di incontrare i ragazzi attraverso i ricercatori, attraverso questo tour che farà tappa il 7 aprile e l'8 aprile anche in Italia, il 7 aprile a Trieste, l'8 aprile a Milano. Su Facebook e su Twitter vi ho già linkato tutte le coordinate, ma per capire bene cosa significa avere opportunità di questo tipo, quanto questi fondi possano davvero cambiare la vita, possono davvero dare la possibilità di realizzare i propri sogni, di mettere a disposizione le proprie competenze, vi vogliamo raccontare una storia e quindi diamo il benvenuto alla professoressa Graziella Messina, vincitrice di un'importantissima borsa di studio. Ciao Graziella, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, buongiorno a tutti. Tu tra l'altro l'8 aprile sarai proprio impegnata, vero? Sarai una sorta di testimonial di Euraxes. Sì. Qual è la tua storia? Perché questi fondi veramente possono essere determinanti? Dunque io ho ottenuto un importante finanziamento nel Consiglio Europeo della Ricerca, si chiama ERC Starting Grant, che è una forma di finanziamento che si rivolge all'individuo, quindi al singolo ricercatore che vuole partire con la sua ricerca, mettere su un proprio gruppo di ricerca per sviluppare le proprie idee. E questa è una delle forme di finanziamento più competitive, ma anche quelle che poi ti danno molto, perché quello che ho ottenuto è un finanziamento di 1,5 milioni di euro, che mi consente adesso di avere un mio gruppo con me 9 persone che lavorano sul mio campo di ricerca, che è quello delle distrofie muscolari. Ed è arrivato in un momento in cui io volevo avere una mia indipendenza, quindi non avere più sopra di me, diciamo così, come spesso accade in Italia, l'ordinario di riferimento, ma spiccare il volo. In Italia queste opportunità purtroppo non ci sono, mentre il Consiglio Europeo della Ricerca promuove proprio questo, a prescindere dalla nazionalità, dall'età anche, perché la mia si chiama Starting Grant proprio per chi deve, diciamo così, decollare. Poi vi è anche un'altra opportunità, che è quella invece per scienziati già affermati che vogliono in qualche modo consolidare il loro gruppo. Mm-hmm. E per me è stato una boccata d'ossigeno, veramente il modo per poter fare quello che voglio fare pur rimanendo in Italia, cosa ormai molto difficile, e devo dire che appunto l'ho ottenuto da ricercatore, e questo finanziamento mi ha dato anche la grossa opportunità di poter progredire nella carriera, visto che da neanche 4 giorni sono diventata professore associato proprio grazie a questo finanziamento. Complimenti. Graziella, ma quindi non basta per oggi avere competenze scientifiche come nel tuo caso, ma bisogna avere anche competenze sul come andare alla ricerca, alla caccia di questi finanziamenti. È una doppia competenza quella che vi viene chiesta? Assolutamente, non siamo più solo scienziati, quindi dobbiamo un po' uscire dai nostri laboratori, dai nostri banconi, dalle nostre provette, dal nostro micromondo, perché veramente ormai è la ricerca disperata di fonti di finanziamento che stanno via via diminuendo, quindi ci si rivolge molto all'Europa. L'Europa però è anche molto competitiva, e quindi devo dire che ormai Euraxes è una grossa opportunità, gli atenei si stanno tutti un po' allineando, gli atenei italiani, per cercare di fare informazione e far capire e far sapere a tutti i nostri colleghi che vi sono importanti opportunità anche fuori dall'Italia, soprattutto fuori dall'Italia, perché diversamente la ricerca, soprattutto anche la ricerca di base, non andrebbe avanti, perché queste forme di finanziamento privilegiano molto anche la ricerca di base, il che è qualcosa di unico, se pensiamo che in Italia diventa sempre molto difficile poter finanziare la ricerca di base. Qual è il consiglio che darai ai ragazzi l'8 aprile quando li incontrerai? Ma il mio consiglio è quello di intanto crederci. Capisco che questo momento storico non aiuta, però veramente se questo lavoro è quello che appassiona, è la missione della propria vita, di insistere, di guardarsi intorno, di uscire un po' da quello che è un po' l'usanza italiana, no? Di rimanere nello stesso posto dove uno si è laureato, dove uno ha fatto il dottorato di ricerca, perché cambiare laboratorio, fare esperienza anche fuori non è sbagliato uscire, no? Viene sempre vista la fuga dei cervelli come qualcosa di negativo. Non è qualcosa di negativo, è qualcosa che va invece molto promosso. L'importante è che poi uno torni, no? In esatto. Italia. È negativo se... quando non si ha altra scelta. Esatto, cioè quando sei proprio costretto, allora sì, è proprio quasi una violenza. Però invece andare fuori, portare nuove esperienze, imparare, ti apre proprio la mente, no? Perché rimanere a lavorare nello stesso laboratorio un po' in qualche modo ti impedisce di metterti in discussione. Invece se vai fuori, chiaramente impari, ti metti in discussione quotidianamente e devi riportare in Italia poi questa tua esperienza. Chiaramente bisogna un po' incentivare questi rientri. E molte forme di finanziamento europeo promuovono proprio il rientro in Italia. Pensiamo al Marie Curie, pensiamo assolutamente. E c.europa.eu/euraccess è il sito, oppure facebook.com/euraccess.onture per avere il programma dei due incontri, quello triestino e quello milanese. Grazie davvero Graziella e complimenti. Grazie davvero per il tuo lavoro, a te. Grazie. E a tutto il tuo team. Ciao, buon sabato. Ciao ciao. Europost-it. Eurodig 2014. Nel 2014 la Germania ospita l'Eurodig, il dialogo europeo sulla governance di Internet, dedicato alle politiche legate al web e organizzato con il sostegno di Commissione Europea e Consiglio d'Europa. Una parte degli eventi è dedicata ai giovani, con discussioni intorno al tema della privacy online, la democrazia digitale e il copyright. Eurodig ricerca giovani tra i 16 e i 27 anni per suggerire domande specifiche su questi temi. Eurodig sarà impegnato nel monitoraggio di tutti i suggerimenti. Quelli più votati entro il 15 aprile 2014 verranno scelti per la sessione plenaria nel secondo giorno dell'evento. Per partecipare o per saperne di più, fatevi un giro sul sito ufficiale dell'evento, eurodig.org. Що працює на народ, хліб не краде, не привласнює завод. Рівно non c'è più, non c'è più l'Ucraina, non c'è più l'Ucraina nelle pagine dei nostri quotidiani, ma noi che crediamo anche nelle altre Europe vogliamo continuare a capire quello che sta accadendo e quello stretto rapporto che lega poi l'Europa a Kiev. E lo facciamo con chi in questi mesi ha fatto una continua spola tra Europa e Ucraina per vedere, per capire, per comprendere, per tessere anche legami diplomatici. Diamo il benvenuto a Paolo Bergamaschi, lavora come consigliere presso la Commissione Esteri del Parlamento Europeo, abbiamo già avuto la fortuna di conoscerlo qui all'Altra Europa. Ciao Paolo, ben ritrovato. Sì, buongiorno Federico, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio 24. Hai scritto un ottimo reportage su Osservatorio Balcani e Caucaso proprio per raccontare la tua esperienza professionale ed esperienza di vita, perché poi queste cose si intrecciano quando le situazioni toccano gli estremi. Cos'hai raccolto in questi mesi, in questi viaggi, in questi incontri, in questo tuo diventare quasi uno di loro? Perché racconti che conosci ormai ogni metro quadrato di quella piazza, conosci quegli occhi, riconosci i taxisti quando arrivi all'aeroporto. Sì, certo, che è il cuore della rivolta, che è stato il cuore della rivolta, il cuore pulsante di tutto quello che è successo in Ucraina. Considera che io ho fatto il primo viaggio subito dopo la decisione dell'allora primo ministro Azarov assieme al presidente Yanukovych di non sottoscrivere l'accordo d'associazione con l'Unione Europea, che era stato negoziato per 5 anni peraltro da almeno 2 governi in successione dell'Ucraina. Sì. Appunto questo grande rifiuto di non sottoscrivere l'accordo è stato annunciato il 21 novembre, io 2 o 3 giorni dopo ero già lì assieme agli studenti che in piazza protestavano. Allora il carattere della rivolta era estremamente spontaneo, gioioso, erano tutti ragazzi, giovani, universitari, che ovviamente guardavano con molto più favore all'Europa piuttosto che a Oriente, a Est, a quella che una volta era considerata la grande madre Russia. E da lì poi è nata tutta la rivolta, pian piano, perché le due piazze che hanno cominciato a rivoltarsi, da una parte prima gli studenti subito a fine novembre, seguito poi dai partiti di opposizione nella piazza distante 200 metri che si chiamava Piazza Europa, poi i due momenti si sono fusi e da lì è partita tutta la rivolta, che continua tuttora peraltro, perché Piazza Indipendenza. Ecco, cosa sta accadendo ora? A che punto siamo della rivolta? A che punto siamo delle relazioni tra Ucraina ed Europa? Come probabilmente sai e come sanno i radioascoltatori, 10 giorni fa l'Unione Europea ha sottoscritto con l'Ucraina la parte politica dell'accordo d'associazione, lasciando fuori la parte economica commerciale, sì, che dovrà essere siglata dopo il 25 di maggio, quando ci sono le elezioni presidenziali, quando appunto verrà nominato il nuovo presidente, che secondo la Costituzione ucraina è quello che dovrà sottoscrivere l'accordo finale con l'Unione Europea. Quindi quello che sta succedendo è il polso della situazione, gli umori, le percezioni che si hanno. Immagino che tu abbia contatti anche quando sei in Italia con colleghi, collaboratori. Certo, ci mancherebbe, anche alcuni amici che adesso sono entrati nella compagine del nuovo governo, diciamo, anche se il nuovo governo presenta aspetti contrastanti, nel senso che presenta volti abbondantemente conosciuti che non riflettono quelle che erano le aspettative originali del Maidan. Il Maidan sostanzialmente è stato un movimento contro l'establishment politico, contro la vecchia guardia che aveva mal gestito gli affari dell'Ucraina negli ultimi, praticamente dalla nascita dell'Ucraina indipendente, quindi dal 92. Quindi era una protesta forte che chiedeva rinnovamento, che chiedeva una lotta forte contro la corruzione. Ricordiamoci che l'Ucraina è un paese che è fra le prime posizioni per quanto riguarda l'indice di corruzione. Ecco, certo. Questa domanda di rinnovamento è stata colta solo in minima parte dal nuovo governo di Kiev, e per certi versi il nuovo governo di Kiev ha dei connotati di restaurazione che secondo me andrebbero abbondantemente superati, anche perché l'Ucraina è un grande paese. Federico, considera che è un paese di 45 milioni di abitanti che si estendono su un'area che più o meno copre quella della Germania e della Polonia messa assieme, quindi è il più grande paese europeo se si esclude la Federazione Russa, che peraltro è a cavallo di due continenti. Ecco, di fronte a questo ci si rende conto che è un mosaico estremamente complesso, lacerato, diviso. Ci sono tante anime nell'Ucraina che hanno bisogno di un aiuto e di un sostegno anche a livello internazionale, non di qualcuno che entri e che divida, che spacchi il paese, sicuramente. Paolo, sto pubblicando online il tuo articolo intitolato Ucraina, la quarta fase della rivoluzione. Proprio in estrema sintesi, qual è questa quarta fase? No, la quarta fase della rivoluzione è stata come ho trovato l'Ucraina in febbraio. Io sono arrivato, è stata la mia penultima visita in febbraio, sono arrivato là 2 giorni dopo il massacro in piazza Maidan, dove sono state trucidate 120 persone e poi peraltro sulla stampa italiana non è comparsa, ma su quella internazionale è comparsa ieri dei primi risultati dell'inchiesta annunciati dal ministro degli affari interni, dove si sospetta in modo abbastanza concreto l'intervento, la presenza, l'infiltrazione dei servizi segreti russi in tutta l'operazione, con il sostegno del presidente di allora Yanukovych, anche se bisogna ancora attendere le conclusioni finali dell'inchiesta a cui tutta l'opinione pubblica internazionale sta guardando. Io sono capitato là proprio in quel momento in cui la gente affluiva in piazza Maidan per ricordare i morti, portavano garofani rossi, fiori, eccetera, eccetera. Questa processione continua ancora adesso, però è un momento che sta scemando pian piano per entrare nella normalità, e la normalità, come tu sai, significa lacrime e sangue per l'Ucraina, perché lacrime e sangue è il piano di austerity imposto dalle organizzazioni internazionali per poter accedere ai prestiti, prestiti per ripagare i debiti immensi pregressi che l'Ucraina ha. È un paese estremamente, dal potenziale estremamente alto, che però si trova impantanato con i problemi del passato, che affondano le radici anche in un sottobosco di corruzione, di burocrazia enorme che intasa un po' tutto, e questo momento deve essere superato. Un paese che non va lasciato solo, non lo dovete fare, non lo deve fare la politica, non lo devono fare i tecnici, non lo deve fare l'informazione, che è quello che tentiamo di fare anche noi. Grazie davvero a Paolo Bergamaschi, vi ricordo ancora Osservatorio Balcani e Caucaso, per leggere il suo bel reportage da Kiev. Ciao Paolo, buon lavoro. Ciao, grazie a te Federico, buona giornata. Un Europost, delle informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'Altra Europa. Europost-it. Seminario contro l'odio omofobico e transfobico. In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia, il 17 maggio il Dipartimento Gioventù e l'Ufficio Orientamento e Identità Sessuale del Consiglio d'Europa hanno organizzato un seminario di 3 giorni in Ungheria, a Budapest, dal 14 al 18 maggio. Il seminario cercherà di aiutare a identificare nuovi modi per sviluppare risposte adeguate a espressioni di odio e violenza omofobica e transfobica anche sul web. Il seminario è rivolto a rappresentanti dei comitati per le campagne nazionali del movimento No Hate Speech, ma anche a organizzazioni giovanili, attivisti online, blogger, reporter di media online e operatori giovanili. Il Consiglio d'Europa coprirà le spese di viaggio, visto, vitto e alloggio per il seminario. Per candidarsi a partecipare c'è tempo fino al 7 aprile. youthapplication.coe.int. L'altra Europa. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Budapest, all these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere. La voce è quella di Churchill. L'anno è il 1946, quando in questo famoso discorso per la prima volta utilizzò la parola, la frase, la metafora cortina di ferro per descrivere quella linea di separazione tra l'Europa dell'Est e l'Europa dell'Ovest. Sono passati 25 anni da quando quella cortina di ferro dovrebbe essere stata cancellata, e a 25 anni Matteo Tacconi insieme a un collega fotografo hanno deciso di ripercorrere l'intero itinerario, l'intera cortina, per raccontare cos'è oggi quell'Europa. Matteo Tacconi è giornalista, inviato, esperto di tematiche europee, qua con noi. Ciao Matteo. Ciao, buongiorno. Sei insieme a Matteo Ferrazzi, state giusto? O sbaglio? Aspetta, perché ho 8000 nomi e mi sono perso. Con chi sei in questo viaggio? Sono con Ignazio Maria Costa. Scusa, cioè, bravo, ho sbagliato collega di viaggio. Sì, ma ce ne ho molti. Matteo era compagno di un'altra avventura. Sì. Un progetto molto particolare, un progetto poetico, un progetto storico. Il nome dell'iniziativa è Verde Cortina, verdecortina.com è il sito, è il portale per seguire il vostro viaggio. Qual è l'obiettivo? Cosa state cercando? Guarda, nulla in particolare, nel senso che c'era venuta da tempo l'idea di rifare questo viaggio, perché prima di noi l'ha fatto anche qualcun altro, il che per noi non è un problema, perché ognuno va e vede le cose con la propria lente, con la propria sensibilità, ma no, semplicemente vogliamo vedere cosa c'è oggi lungo questa cortina. Una cosa già lo sappiamo, nel senso che dal nord della Germania fino a Trieste costeggiando appunto questa linea che di fatto non c'è più, certo, sarebbe fatta, e un confine, quello intratedesco, non esiste proprio. C'è una spina dorsale di parchi naturali, questo porta anche al nome del nostro progetto, che è Verde Cortina, e questi parchi nacquero perché appunto durante la guerra fredda c'era una sorta di striscia di sicurezza e di sicurezza psicologica da ambo i lati, soprattutto da quello diciamo dell'est, all'interno della quale nulla si costruiva, e di fatto fauna e flora l'hanno popolata. Quindi dopo l'89 queste aree, che erano già aree naturali, sono state elevate al rango di parco, ed è bello pensare che lì dove c'era la militarizzazione e la terra di nessuno, oggi c'è appunto questa dorsale verde che congiunge il nord al sud dell'Europa. Questa è una cosa che è visibile palmo a palmo. Certo. Per il resto, niente, ci teniamo ai bordi di questa cortina, anche andando un po' dentro, perché insomma il respiro della frontiera va ben oltre la linea di demarcazione tra due territori, e vediamo un po' che cosa c'è. Per ora abbiamo trovato tanta normalità, il che non è che sia una brutta notizia, insomma, cioè, appunto, la vita fluisce normalmente, ed ormai siamo nel pieno dei nuovi tempi. Dove siete ora attualmente? Adesso siamo sulla strada per la foresta della Baviera, sì. Quindi nel sud della Germania, sul confine tedesco-ceco, dove c'è un grosso parco transfrontaliero, perché il bello è che questi parchi sono condivisi. Sì, non conosco, la natura non conosce confini, quindi diciamo che... Hai ragione, è perfetta questa frase. E quindi poi da lì poi scenderemo verso il confine austro-ceco e poi via via strada facendo fino a Trieste, dove si conclude il viaggio. Ok, il punto di partenza invece che avete scelto qual è stato? Non è Stettino, come disse Winston Churchill, ma questo per un semplice motivo, che quando quella frase fu pronunciata era il 46 e la Germania non era ancora divisa, quindi di fatto, ipotizzando una Germania neutrale, perché di questo allora si parlava, Stettino era la città dell'est in Polonia che più era addossata a, diciamo, a questo spartiacque est-ovest. Poi la Germania fu sdoppiata e quindi la cortina si è spostata più a occidente. Noi siamo partiti da Lubecca, che era la città ex tedesco occidentale, che era da dove partiva di fatto questa linea di divisione, non in Lubecca centro, ma nei suoi sobborghi, dove c'era la dogana più a nord tra le due Germanie. Siamo partiti da lì e poi siamo scesi con una deviazione su Berlino, che pur non essendo sulla cortina di ferro aveva una cortina al suo interno. Assolutamente. Quindi, diciamo, è inevitabile passarci, anche perché non sarebbe esistita la cortina di ferro se Berlino non fosse stata divisa. Hai detto tanta normalità, ma ci sono anche tracce di memoria, nel senso c'è desiderio di ricordare, perché in alcune situazioni forse questa memoria è anche troppo ostentata, a volte è completamente cancellata, c'è proprio il desiderio di non ricordare, invece state raccogliendo segni di quel passato. Sì, sì, guarda, un'altra caratteristica di questa frontiera è che è anche molto didattica, perché ogni tot chilometri c'è un museo, che può essere o in una struttura chiusa o persino all'aria aperta, dove di fatto viene riprodotta la vita di confine ai tempi della guerra fredda. Quindi c'è torrette d'avvistamento, pezzi di muro, perché il muro era anche lungo la cortina, non solo dentro Berlino, reticolati e via dicendo. Alcuni sono un po' più pop, kitsch, altri come quello che abbiamo visto ieri a Modlarois, che è una piccola cittadina tra Turingia e Baviera, quindi tra ex Germania Est e ex Germania Ovest, dove correva un vero e proprio muro di 700 metri, sono stati ricostruiti, o meglio, rivisitati, perché i pezzi di questo muro sono quelli originali e sta lì dove stava, in maniera molto asettica e neutrale, e credo che sia il modo migliore per ricordare quei tempi e per far vedere come andavano le cose a quell'epoca. Per il resto, in alcuni casi nessuno ormai fa più caso al fatto che questa cortina passava, ed è bello anche così. Intervistate le persone? State facendo incontri anche? Sì, guarda, noi non abbiamo, a parte alcune tappe prestabilite, perché comunque è un viaggio lungo e da qualche parte bisogna dormire, ci muoviamo un po' a fiuto, a naso, andiamo dove ci portano le nostre suggestioni, e io non ho preparato alcun tipo di intervista e mi fermo a parlare con la gente comune. Credo che in questo caso sia la cosa migliore da fare, ecco. Tutte queste testimonianze, gli incontri, un po' il diario di viaggio, intanto potete trovarlo su verdecortina.com, e poi probabilmente tutto questo, speriamo, ci auguriamo, insomma, diventi poi altro al vostro ritorno. Grazie davvero Matteo, buon viaggio, buona Cortina. Grazie a te, alla prossima, ciao. E questa puntata termina qua, un grazie a Margherita Ine e Katia Marinelli che con me hanno scritto la puntata, Peter Bescapè oggi in regia, Giorgio De Luca in assistenza, radio24.it è il nostro sito da cui potrete poi riascoltare o scaricare la puntata e trovare anche tutte le indicazioni relative ai nostri Europost-it, oppure sui social network Facebook e Twitter. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddei. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.